Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Lo stile di vita dei britannici dovrà cambiare. Il premier Cameron annuncia drastici tagli alla spesa pubblica. Recuperano le borse europee dopo una partenza tutta in ribasso per paura della bancarotta ungherese. L'addio di Michele Santoro alla Rai da aprile-maggio dice: restituisco la libertà all'editore. Francesca Schiavone, dopo il successo al Roland Garros, ora tutti la vogliono come testimonial in TV. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. I governi europei alle prese con le misure anti-deficit. This is the sober reality that I have to set out for the country today. Questa è la pura e semplice realtà che devo esporre oggi per il nostro paese. L'eredità lasciata dal governo precedente è terribile. Queste le parole di David Cameron, primo ministro del Regno Unito, che oggi ha parlato dello stato dell'economia britannica. Il settore privato è tornato ai livelli di 6 anni fa. Nei prossimi 5 anni la somma degli interessi sul debito diventerà più alta di quelle di scuola, ambiente e trasporti messi insieme. Le misure da prendere, ha concluso Cameron, saranno inevitabilmente durissime. E per quanto riguarda invece l'Italia, domani la manovra approderà in commissione bilancio del Senato. Ci colleghiamo con il nostro Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un iter parlamentare che si preannuncia particolarmente intenso. Il testo approda infatti alla Commissione Bilancio dopo il passaggio agli affari costituzionali. Tra mercoledì e giovedì poi vi saranno le tradizionali audizioni, tra queste quelle di Banca Italia, Confindustria e sindacati. Altro capitolo, quello degli emendamenti. La maggioranza e diversi ministri non lo hanno mai nascosto. La manovra può essere migliorata in Parlamento. Certo sarà difficile aggirare i rigidi paletti messi da Tremonti ai limiti di spesa. Da via 20 settembre si ricorda a tal fine che alcune modifiche potranno essere accolte, ma strettamente a saldi invariati. Tesi questa ribadita anche da uno dei ministri più coinvolti dalla correzione dei conti, quello della funzione pubblica Brunetta. Fatti salvi i saldi, ha detto il ministro, nessuno può negare che la manovra possa migliorare nel passaggio alle Camere, anzi mi piacerebbe che da 24,9 si arrivasse a 25 miliardi di euro. Ma da dove partire per le modifiche? Diversi nodi da sciogliere, le piccole farmacie comunali, i tagli per la sicurezza, la sanatoria sugli immobili, le pensioni delle donne, del pubblico impiego. E da Roma è tutto. Grazie, grazie a Vincenzo Miglietta. Proseguendo intanto la polemica dopo le parole di Calderoli sui tagli e a ingaggi e premi nel calcio. Il ministro Calderoli, più interessato alla squadra della Padania che alla nazionale, chiede ai giocatori azzurri di rinunciare a parte del premio che eventualmente, in base al risultato dei mondiali, verrebbe loro corrisposto. Parliamo di 240.000 euro netti per il primo posto, di 130.000 per il secondo, di 30.000 per il terzo. Bene, il presidente della federazione Abete ha subito precisato che questi soldi, ammesso che l'Italia onori fino alla fine il mondiale, ha subito precisato che questi soldi non graverebbero sulle casse dello Stato. Ma la domanda è un'altra: in un momento di pesanti sacrifici come questo, con l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne, i pesanti tagli ai comuni e quindi anche ai servizi corrisposti a noi cittadini, questa polemica è una doppia presa in giro. Primo, perché a pagare dopo questi fuochi d'artificio saranno i soliti noti. Secondo, perché nel caso davvero gli azzurri vincessero il mondiale, evento al momento improbabile come il taglio delle province, li vogliamo vedere i vari Calderoli fare le pulce alla nazionale. In Italia, a salire sul carro dei vincitori, i nostri politici sono maestri. A volte lo sono anche nel scendere. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. I magistrati hanno proclamato lo sciopero per protestare contro la manovra voluta dal governo, come sapete. Per il ministro Alfano questa decisione votata dall'ANM, il sindacato delle toghe, è una mossa di tipo politico. Vi chiedevamo cosa ne pensate nel nostro sondaggio di oggi e il 55% di voi si è detto d'accordo con la lettura del ministro. Sentiamo il segretario dell'ANM Giuseppe Cascini al microfono di Alessandro Milan. Diamo il nome alle cose, questo è un prelievo di natura fiscale, fatto non si sa perché solo nei confronti dei dipendenti pubblici. Fatto un prelievo fiscale per ragioni straordinarie, per una crisi economica, si dovrebbe fare nei confronti di tutti i cittadini e si dovrebbe fare in maniera proporzionale al reddito. Se una persona guadagna 3 milioni di euro dovrebbe pagare di più di uno che ne guadagna 40.000. Siccome qui abbiamo i grossi manager pubblici e i grossi manager privati, stiamo ancora aspettando che il ministro Tremonti emani il regolamento per fissare i tetti massimi di retribuzione dei manager pubblici. Io credo che andare a prevedere un terzo dello stipendio a un magistrato di prima nomina che guadagna 40.000 euro lordi, cioè 2.000 euro netti al mese, che deve andare in Sicilia a trovarsi casa e iniziare un'attività professionale come questa, secondo me non è una cosa giusta. Ed ora il punto sulle borse, che recuperano dopo un avvio piuttosto pesante. Deborah Rosciani, allora come va adesso? Allora, va meglio perché è stato pubblicato poco fa un dato economico, arriva dalla Germania, si tratta del dato sugli ordini all'industria manifatturiera, si riferisce al mese d'aprile, ma è comunque incoraggiante, c'è un rialzo, un progresso del 2,8% su base mensile, un dato nettamente migliore delle attese degli analisti che addirittura prevedevano una flessione di mezzo punto percentuale di questo indicatore macroeconomico e in sostanza stamattina si è rimessa in primo piano la prospettiva di ripresa dell'economia europea. Dunque, dopo un avvio molto negativo stamattina per l'Europa, gli indici hanno risollevato tutti la testa. Rimangono ancora con il segno meno Parigi, Francoforte e Londra, ma un segno meno molto più leggero di stamane. La più pesante Londra, che perde mezzo punto, per il resto Parigi meno 0,29%, Francoforte meno 0,12%, Milano addirittura guadagna lo 0,34% e si risolleva anche l'euro sul dollaro. Adesso le quotazioni sono a 1,19,78. Rimane ancora lo spettro ungherese ad aggirarsi fra gli stili del vecchio continente, ancora preoccupazione per l'economia in termini generali perché c'è stato il pesante dato sulla disoccupazione americana venerdì, ma stamattina questo dato della Germania è bastato appunto a risollevare un po' l'umore degli investitori. E per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. In questi minuti la conferenza stampa di Michele Santoro, separazione dunque dalla RAI del conduttore di Anno Zero, lo chiediamo ad Alessandra Schepisi che è lì. Sì, buongiorno. Santoro resta o non resta in Rai? Il nodo non è ancora sciolto. Il conduttore di Anno Zero lancia nuovamente la palla nel campo dell'azienda in una conferenza stampa infocata dove avrebbe dovuto finalmente annunciare la sua decisione. Chiede al presidente Garimberti di dire chiaramente di fronte alle telecamere se vuole o no che la sua trasmissione vada in onda e non solo se vuole o non vuole Santoro in Rai. Insomma, ci metta la faccia. Se dirà di sì ad aprile-maggio della prossima stagione, restituirò la libertà all'editore, un giornalista rabbioso che rivendica i meriti di una trasmissione che dice ha fatto incassare alla RAI molti utili, ma sentiamo la sua voce. Per 12 serate siamo stati il primo programma, per altre 15 siamo stati il secondo, per 4 serate siamo stati il terzo programma. La cosa importante è che alla fine di una stagione così voi non avete un direttore di rete che si presenta a voi e vi dice guardate che questo per noi è un programma irrinunciabile. Santoro affronta anche il tema dei suoi compensi, sull'entità dei quali si era scatenata la polemica. Non ho mai preso soldi dalla RAI che non fossero proporzionali a quelli che la RAI ha incassato dai miei programmi. In conferenza stampa risponde a Santoro, incalzato dai giornalisti, il direttore di Rai 2 Massimo Lioffredi, Anno Zero in valore della rete, dice, ma è un problema che non posso affrontare io, è sul tavolo del direttore generale del consiglio di amministrazione. Interviene anche il consigliere Rizzo Nervo, secondo il quale non è il CDA che deve esprimersi, perché così la questione resterebbe sempre politica, basterebbe, dice, una parola del presidente Garimberti. Una conferenza stampa molto animata da fischi e applausi ancora in corso qui a Viale Mazzini. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. E dopo aver superato la soglia 60 milioni nel 2008, nel 2009 i residenti in Italia continuano ad aumentare. Secondo l'Istat siamo 60 milioni 340 mila. Un aumento dovuto però agli stranieri. La percentuale di residenti non nati in Italia ha raggiunto infatti il 7%. Mentre in Italia continuano ad essere meno i bambini che nascono, nascono degli anziani che muoiono. In sostanza, senza i nuovi arrivi la popolazione italiana non solo non aumenterebbe, ma diminuirebbe. Mancano i fondi per pagare i professori delle commissioni d'esame e un preside li chiede ai genitori, così in un liceo in provincia di Bari. Le casse sono vuote, ha annunciato il preside del liceo scientifico Maiorana di Putignano. Non ci sono neanche i soldi per pagare la tassa sui rifiuti, tantomeno per rimborsare i professori delle altre scuole che faranno parte delle commissioni d'esame. Allora azzarda, la cifra mancante, circa 18.000 euro, la mettano le famiglie dei ragazzi impegnati nella maturità. 145 euro a testa, da restituire quando il Ministero dell'Istruzione salderà il conto. Ma i soldi ci sono già, replica oggi il Ministero. E così in queste ore l'Ufficio Scolastico Regionale sta cercando di fare ordine nella vicenda. Ma non è un caso isolato nel mondo della scuola. L'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, denuncia altrettanto la mancanza di fondi e propone che siano anche in questo caso le famiglie a pagare quando non si riesca ad avere soldi sufficienti per garantire a tutti il tempo pieno alle elementari. Riccardo Roman, sindaco di Galzignano Terme, in provincia di Padova. L'opzione nessuno due. O le istituzioni, gli enti locali come noi, dicono ok, cerchiamo di affiancarci alla scuola e organizzare noi il servizio, ma bisogna pagarlo e noi soldi non ce li abbiamo, perché purtroppo siamo messi sempre peggio, oppure d'altra parte sono i genitori stessi che devono pagarsi il servizio. Allora diventa un servizio a censo. Questo è estremamente grave. Casse vuote, insomma, e fra la provocazione e la denuncia sono sempre più quelli che i soldi li vorrebbero dalle famiglie. Matteo Finco, GR24, Il Sole 24 Ore. Ecco, pochi istanti fa è stata battuta dalle agenzie la notizia che il Ministero dell'Istruzione ha commentato proprio il caso del liceo scientifico Maiorana di Putignano di cui stavamo parlando, definendola una vicenda totalmente infondata e pretestuosa. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha diffidato quindi il preside dal chiedere soldi ai genitori, creando un inutile e infondato allarmismo. Quella terra rossa l'ho baciata, mangiata e anche portata a casa. Due giorni dal trionfo di Parigi parla Francesca Schiavone. La tennista dice ora di non rendersi conto di quanto è diventata popolare. Ma presto, a dimostrarlo, arriveranno i contratti. Ora tutti la vogliono, tutti la cercano. Sembra quasi che prima della storica impresa di sabato pomeriggio Francesca Schiavone quasi non esistesse per il grande pubblico e i grandi titoli dei giornali, ma soprattutto per aziende pubblicitari, che ora invece la vorrebbero tutti come testimonial. Varrebbe uno, forse 2 milioni in contratti la campionessa. Eppure i testimonial sono comodi ma rischiosi, dice un pubblicitario di lungo corso. Per 40 anni creativo di Armando Testa, ora capo della propria agenzia, Silvia Vano Guidone. Non mi piace il meccanismo di un successo meritatissimo, ma che uno la scelga come testimonia di un prodotto senza che quel prodotto abbia un ragionamento più sofisticato e più profondo. Mi sembra un facile meccanismo. Uno sportivo sano va bene per una linea dietetica, va bene per lo yogurt, va bene per qualsiasi cosa. La prova è che tutti vogliono buttarci. Sarebbe un facile, banale mestiere. E Valentino Rossi non va bene, certo che va bene, ma c'ha una profondità, c'ha uno spirito, uno humor, è tutto da vedere. Ma quello è un gigante. Questa non lo so, può darsi che venga. Passerei un 6 mesi, un anno prima di prenderla. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 vi abbiamo fatto sentire le parole del premier britannico Cameron, che ha annunciato drastici tagli alla spesa pubblica. Intanto la manovra italiana da domani inizierà il suo iter parlamentare fra le proteste e le polemiche. Recuperano le borse europee dopo una partenza tutta in ribasso per paura della bancarotta ungherese, ed è ancora in corso la conferenza stampa di Michele Santoro. Il presentatore di Anno Zero annuncia: l'anno prossimo restituirò la libertà all'editore. E riprendiamo parlando invece dell'incidente a Bhopal in India. Oggi le condanne. A più di un quarto di secolo dalla tragedia di Bhopal, finalmente lunedì mattina ci sono state delle condanne. La succursale indiana dell'American Union Carbide e 7 suoi dirigenti sono stati giudicati responsabili del più grave disastro industriale della storia. Una tragedia costata la vita a un numero di persone che a seconda delle stime oscilla tra 3.500 e 25.000. Era la notte tra il 2 e il 3 dicembre del 1984, quando lo stabilimento di Bhopal della Union Carbide rilasciò nell'aria un gas tossico, l'isocianato di metile, che nel giro di pochi giorni avrebbe ucciso migliaia di abitanti della città e segnato per sempre e nei modi più spaventosi le vite di un numero incalcolabile di bambini non ancora nati. L'entità delle condanne annunciate lunedì non sarà resa pubblica prima di qualche giorno, ma non potranno superare il tetto massimo di 2 anni e saranno appellabili, un processo che in India può richiedere diversi anni. Tra i dirigenti giudicati colpevoli non c'è Warren Anderson, presidente e chief executive officer della Union Carbide al tempo della tragedia. La sua posizione è stata stralciata perché attualmente vive indisturbato da latitante negli Stati Uniti, paese da dove la magistratura indiana non è mai riuscita a estradarlo. Marco Masciaga, GR24, Sole 24 Ore, New Delhi. L'ennesima provocazione dell'Iran, così il governo israeliano giudica la notizia che l'Iran è pronto a inviare a Gaza 2 navi con aiuti umanitari. La sfida contro l'embargo israeliano su Gaza continua e stavolta a inviare le navi sarà la Mezzaluna Rossa iraniana. Secondo l'agenzia stampa di Teheran, due imbarcazioni cariche di aiuti e volontari sarebbero pronte a salpare alla volta dell'enclave palestinese. La partenza dovrebbe avvenire entro la fine di questa settimana. Una decisione presa dall'organizzazione umanitaria in accordo col Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, il che dà ovviamente all'impresa un significato politico che nulla di buono lascia presagire, anche perché, contestualmente, i guardiani della rivoluzione hanno annunciato che se l'Ayatollah Khamenei lo ordinerà, saranno loro stessi a scortare il mini convoglio. La tensione resta dunque alta, la paura dello Stato ebraico è che camuffati tra aiuti e attivisti possano nascondersi armi e terroristi. Proprio questo timore, del resto, è stato una delle cause fondamentali della durezza con cui Tel Aviv ha affrontato la Freedom Flotilla, causando la morte di 9 volontari filopalestinesi. E sempre dal mare è arrivata nelle ore scorse una nuova minaccia, fortunatamente sventata per Israele. Un comando di terroristi palestinesi, già ribattezzati Uomini Rana, è stato intercettato dalla marina israeliana al largo di Gaza. 4 dei subacquei sono morti nello scontro a fuoco con i soldati. Un altro è rimasto ferito. Virginia Di Marco, GR24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme. Ed ora ci spostiamo in Egitto. È il tempo di esami e l'escamotage piacerebbe a molti, ma sarà difficile che ci si possa presentare ai professori con il niqab, il velo integrale che lascia intravedere solo gli occhi ed è usato da una minoranza di donne musulmane. Niqab vietato agli esami, perlomeno in Egitto. Al Cairo l'alta corte ha respinto il ricorso di alcune studentesse e sancito in modo definitivo il divieto a presentarsi agli esami con il volto coperto. La più alta istanza amministrativa egiziana ha dato così ragione ai rettori delle tre principali università statali del Cairo, che hanno proibito l'accesso agli esami a circa 200 studentesse velate in modo integrale. Sempre al Cairo un'iniziativa analoga era stata presa all'inizio dell'anno anche dalle autorità dell'Università Islamica di Al-Azhar, scatenando un braccio di ferro giudiziario. Le donne che mettono il niqab sostengono che sia parola di Dio, citano fonti islamiche, ma dimenticano l'importanza che la moderazione ha nel messaggio rivelato al profeta Maometto. Farian Sabai, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed ora parliamo della marea nera, perché la BP inizia a fare conti per i danni causati nel Golfo del Messico. Cauto ottimismo intanto per l'ultimo intervento che cerca di bloccare la falla. Oltre $1 miliardo è quanto ha speso finora la British Petroleum per cercare di arginare la marea nera provocata dalla fuoriuscita di greggio nel Golfo del Messico da uno dei suoi pozzi sottomarini. Spesa che non comprende i $360 milioni stanziati per creare una barriera di isole artificiali davanti alle coste della Louisiana. 10.500 sono invece i barili di greggio raccolti nella sola giornata di sabato grazie alla posa di uno speciale imbuto sul fondo marino. Un tipo di intervento, quest'ultimo, per il quale l'ottimismo è ancora prematuro, anche se il capo della compagnia petrolifera Tony Hayward si è detto soddisfatto. Il suo entusiasmo è stato però subito frenato dall'ammiraglio Allen, che sta seguendo per conto della Casa Bianca tutte le operazioni nel Golfo. Stiamo facendo i giusti progressi, ha detto l'alto ufficiale, ma penso che nessuno possa sentirsi felice fino a quando c'è petrolio in acqua. La macchia di greggio che esce dal pozzo a 1500 metri di profondità si sta infatti estendendo a macchia di leopardo per un raggio di circa 320 chilometri. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Un cacciatore chiamato a dirigere un parco. Lui si chiama Franco Perco, era dirigente di Federcaccia e ora è stato nominato direttore del parco dei Monti Sibillini fra Marche ed Umbria. Già così la vicenda suona un po' bizzarra. A renderla ancora più bizzarra poi il fatto che gli ambientalisti siano pure contenti. Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette per Legambiente, al microfono di Roberto Bonaldi. Franco Perco, prima di essere un cacciatore, è uno stimato zoologo, una persona che ha i titoli per essere inserito nell'elenco dei direttori gestito dal Ministero dell'Ambiente, quindi la condizione di cacciatore è una condizione a contorno, lo giudicheremo su quello che farà. Ci ha aiutato a comprendere le ragioni anche dei cacciatori, che per certi versi hanno aiutato a comprendere perché fare un'area protetta in che modo. Ma un direttore di parco non decide nulla se non, diciamo, l'esecutore di quello che decide il consiglio direttivo e il suo presidente. Ma poi nei parchi la caccia è vietata da anni. Abbiamo un rapporto di collaborazione, ad esempio, con l'Arcicaccia in primis, per evitare che l'attività venatoria sbandi nella barbarie. C'è un mondo venatorio attento, sensibile alle ragioni di una gestione faunistica corretta, e ce ne sono altri che si esercitano, diciamo, a fare i barbari. Col mondo delle persone per bene noi ci dialoghiamo da tempo, con l'Arcicaccia ma anche con le altre associazioni. Questo è anche la nostra storia. E siamo allo sport. Il pilota australiano di Formula 1 Mark Webber, attualmente in testa alla classifica del Mondiale Piloti, ha prolungato il suo contratto con la Red Bull fino al 2011. Lo ha reso noto la scuderia austriaca. È stata una decisione facile, ha commentato Webber. I negoziati erano cominciati all'inizio dell'anno ed eravamo pronti a firmare fin dal GP di Barcellona. Anche l'altro pilota della Red Bull, il tedesco Sebastian Vettel, sarà sotto contratto con la Red Bull l'anno prossimo. La Red Bull attualmente è seconda nella classifica costruttori dietro alla McLaren. Ed è tutto per questo GR24, ci risentiamo alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.